non se ne va questo spirito libero, questo ragazzo che porto dentro è una vita che ti guardo. E non se ne va questa luce dagli occhi, questo momento che sembra eterno è una vita che ti sento. E corre, corre, corre adesso più che mai la voglia di restarti vicino. Dammi la mano e corriamo anche noi. E corre, corre, corre adesso più che mai la voglia di rivivere tutto da capo e ogni momento. La voglia di chiamarti amore come non te l'avessi mai detto. La voglia di distruggere tutti i pericoli che ci sono intorno solo per proteggerti ancora, proteggerti fino alla fine del mondo. Ci porti stasera con te a vedere com'è. Non se ne va neanche un solo ricordo. Immagini la storia, il tempo è una vita che ti sogno. E corre, corre, corre adesso più che mai la voglia di sentirmi un bambino. Dammi la mano e corriamo anche noi. E corre, corre, corre adesso più che mai la voglia di rivivere tutto da capo e ogni momento. La voglia di chiamarti amore come non te l'avessi mai detto. La voglia di distruggere tutti i pericoli che ci sono intorno solo per proteggerti ancora, proteggerti fino alla fine del mondo. Gli alberi arrivano in cielo, la luna dentro casa mia. Nessuno toglie il mistero di questa splendida armonia. Dal sole caldo di agosto alla pioggia che lo spazza via, ogni secondo è rimasto, rimarrà per sempre, rimarrà per sempre, rimarrà per sempre. La voglia di rivivere tutto da capo e ogni momento. La voglia di chiamarti amore come non te l'avessi mai detto. La voglia di distruggere tutti i pericoli che ci sono intorno per proteggerti ancora, proteggerti fino alla fine del mondo. Ci porti stasera con te a vedere com'è, a vedere com'è.